strategia è per abitudine, quando sei sicuro di aver fatto quell'operazione, dove c'è il cavo, il BL, sempre una passata di nastro, in modo che se dovesse giocare in quel punto lì, il nastro lo tiene fermo. Mi sembra che tu ci abbatta lì in alcanza a 9 anni, vuol dire? Ho detto, nel camper, oltre l'apparato, c'hai anche la ciabatta, mi sembra di no. Mamma mia. Ciao. No, non connette. Cosa vai tu per attaccare il baracchino? Dove è collegato il baracchino? Diretta ce l'hai. No, non ci siamo capiti. Oltre il baracchino, sul baracchino il PL, diciamo che attacca al baracchino, ce l'hai diretta l'antenna, giusto? Oh, la classica ciabatta. Intendevo come l'amplificatore lineare, cambia, chiamalo come vuoi, tu non ne hai. Vabbè, io ho detto certo ciabatta, di solito la si chiama ciabatta, o di solito la si chiama stufetta, vabbè, magari non te lo sei ricordato, ma... perché a te ci vuole una piccola ciabatta, già lo sai la sua funzione quale, sì. Cioè, una piccola ti va bene a te, una piccolina, adesso per dire c'è il 747 piccolino, ti toglie fuori spirito e vatto, insomma, e ti aiuta. Poi dipende a te, cosa ne so, c'è quello che gli rimette là, c'è quello che la lascia così come ce l'ho a casa. Ah, ho 50, 70 watt, va bene, mio, oggi costa 40 euro, veniai, 45 euro. Lo metti sotto, nascosto, con l'interruttorino. Quando non ti sento non lo attacchi, quando sento una buona non ne attacchi, capito? E vanno bene con i miei. Allora quando ci hai ragione, ma infatti tu come ti è capitato qualche volta, fino arrivi, almeno sei sicuro. Purtroppo Eugenio, c'è una cosa, lui quando entra le mani in tasca c'è ancora il riccio e quando deve prendere qualcosa si fugge sempre, quello è un problema. Così Eugenio, mani corte, sì. Cosa c'è? Tra uno quando lo deve prendere la cosa che serve e la prende, cioè no, è inutile stare lì con 9 in gola. Certo, poi rimani sempre con questa 9 in gola, e se l'avessi presa, e perché non l'ho presa, e qua, e là, cioè, ma guarda, io ne ho uno che ho bruciato, cioè bruciato, non lo so, c'ho un B550 che c'ha 4 finali, Claudio forse lo conosce, della ZG. E adesso va in perdita, toglie fuori sì e no, mi sembra 80-100 watt. Se lo vuoi, te lo do, te lo fai mettere a posto, Soltanto Geppa, pensa, ti dico che lì minimo adesso ci saranno due finali abbruciati, minimo, se non tre pure, perché sta togliendo intorno agli 80 centovat, ogni finale di questo, di quello, se non ricordo male, mi sembra che torni fuori intorno ai 60-70 watt, perché in pieno regime, quello lì, se non sbaglio, mi sembra che toglieva intorno al 300 watt. E tu di 300 watt non te ne fai niente, perché se sei in colonna con il camper lì attacchi quello lì, fai uscire il fuoco dall'antenna e agli altri tuoi colleghi. E vabbè, dai, diciamo che tu lo usi soltanto così, saltuariamente, lo usi magari in vicinanza e così via. Va bene, dai. Serve per l'impianto in macchina completo, ci vuole per il motivo appunto che quando sei lontano ti fai sentire, quando non ti serve lo lasci spento. Ma anche la casa è la stessa cosa, io non c'ho l'amplificatore, lo uso solo quando mi serve e basta, sono sempre spento, tutto lì, capito? Però quando serve, allora attacca già. Che poi chiama Eugenio, parti già da un presupposto, con il caso sei in una zona un po' chiusa, e tu adesso mi dai, cazzo, adesso stai cercando quello del luogo, adesso stai ipotizzando l'impossibile, quello e quell'altro. Allora io adesso ti faccio questo esempio, visto che tu giri nel camper, magari ti trovi in una zona un po' balorda e non ti prende il cellulare, l'unica fonte è il tuo amatissimo apparato paracchino, e soltanto con la sua potenza, con 5 watt, non riesci, diciamo, a comunicare, non riesci a farti sentire. Magari con quel piccolo aiuto che hai riesci magari a farti sentire. No, niente da fare, no, andate. E vabbè, dai, sono dei punti di vista, dai, comunque. Va bene. centro, che tutta la miera non hai sottotetto, capito? Tu accanto alla mia era un bel buco al centro tetto con un'antenna che ti piace, allora lì puoi fare un bellissimo impianto. Lì vedi c'è la spizzarrisci, bello, centro tetto, tutta la mia era sotto ben pulito, con la tela attaccato al connettore, ti dico che c'è un piano di massa favoloso lì, molto bello, poco pompa. Come ti ha detto Sandro, un B300 puoi mettere lì, è più che sufficiente. Lì, piano piano. Le cose si fanno quando servono, quando ce ne voglia, se no si lasciano come sono. Quindi quando l'accendevi tutto puntini puntini, né ricezione né trasmissione, dopo che scaldava lo lasciavi acceso un pochino, una mezz'oretta, anche di più, si riprendeva da solo, capito? E quindi l'ho mandato e mi ha cambiato tutti i condensatori, tutti, dal primo sino all'ultimo. C'era anche qualche cosettina da fare, era tutto riallineato, tutto adesso è perfetto. È tornato nuovo, ed è in buonissime condizioni, perché chi qualche graffietto ce l'ha, però è in buonissime condizioni. Una bella revisionata gliela data. E basta, fatti 4,30, sempre spento, sto usando questo. Dei gatti che ce n'erano altre due in terrazzino, ne stavo dimenticando. Poi ho pulito la tavola di oggi, no? Che c'è da due giorni, un fiago di biscio. Ma infatti io, sai che mi sono messo la mascherina, quella mascherina che metti sul muso, ed è carboni attivi, per non sentire gli odori, perché se ti avvicini troppo, no, alla cassetta, c'è un odore così penetrante, la pipì dei gatti, che ti viene da buttare. Ma ci ho messo la mascherina lì, che filtra anche la polvere e gli odori, e mi sono messo i guanti per non sporcarmi le mani. Ho buttato, ho fatto due viaggi e ho buttato tutto, ho buttato anche una bustina che avevo in camera mia di roba così. Bene, e Sandro è qua? Sandro? Sembra che sia uscendo. Ok, Claudio, vedi un po'. Sì, mi sembra senza processore o senza amplificazione del microfono, controlla. Ok, no, ma processore inserito. Vediamo un attimino. Adesso l'ha messo. Vedi un po'. E adesso è inserito. Posso levarlo il Michele, lascialo sempre tra l'uno e qualcosa, così non strappa. Va bene. Oh, ti dicevo appunto, voglio capire se la batteria al litio fa anche quel difetto, che non ti mantiene la memoria, capito? Quindi può darsi pure che voglia cambiata solo quella, però se non avvero il difetto che fa. Ok, dai. Non lo so, è probabile pure che sia la batteria, non mi stai dicendo tu, non te lo so dire. Dove ce l'hai esattamente la batteria? Dietro il frontalino, in mezzo. Dietro il frontalino in mezzo, ecco, vabbè. No, poi queste batterie al litio dovrebbero essere quelle con sciacquo le arette, giusto? Che vanno saldate. Ce n'è da saldare, ad esempio quella del 430 mi pare che sia saldare anche quella. C'è da saldare e non, capito? Chiarai che serie è quella del 440, perché c'erano delle serie che non erano saldate e delle serie saldate. Ok, dai, va bene, va bene. Ciao Marco, buonasera. Ehi, ciao Sandro, ben entrato. Cioè ben entrato io, voi c'eravate già. Ma quelle batterie del Kenwood cosa erano? Quelle a bottone larghe, no? Tipo CR2000 e qualcosa, litio, sì. Certe vanno anche in certi orologi Casio, sono grandi e appunto durano un'infinità. Sì, sono quelle grandi a pastiglietta. È un po'... Bisogna fare una cosa con calma, non ho rotto le palle a farla comunque. Quella del 140 è una tronzata, anche quella della C80. Quella del 711 ho cambiato, 711, sempre serie che in modo però sono V1, che è sopra, proprio si vede, appena appena si vede. Questa rimane più nascosta, ma comunque c'è fattibile cambiare. Non è un problema, sa, però bisogna vedere. Ti metti per la macchina un giorno, sali qua e la proviamo, vediamo. Io il difetto che fa la batteria lo so qual è. Se non è quello vuol dire c'è qualche altra cosa, ti conviene mandarglielo. Se è solo la batteria gliela cambiamo, non è... piano piano già si può fare. Invece se sono altri problemi ti conviene mandarglielo, così te lo fai sistemare con la radio. Ok, dai, va bene, no, perché se del resto va bene la radio, una volta che la resisti, va benissimo, è soltanto questo problema qua, vabbè, più delle volte diciamo rimane anche spenta, quindi... facendo anche molte morte di pappa, quindi questi hanno bisogno non solo di essere accese, ma quanto anche modularci, tutto per farlo entrare, giusto per farlo entrare in piena armonia. Va bene. Se hai 5 minuti chiamami che ti devo dire una cosa, che sono al limite dei minuti, io se non sono vado in uscita non ho, sto guardando, sì, sono al limite dei minuti, dovrebbe toccarmi domani o dopodomani, chiamami dopo se hai 5 minuti, ti devo dire una cosa. Hai capito caro Marco? Io da qui sì, zio Claudio non è sempre all'ascolto, bello bene. Io sempre sono in agguato, sempre, da tutte le parti. Sento tutto. E beh, se no che torre di controllo saresti? E con il tuo spirito. Pace bene a tutti. Grazie altrettanto. Sto bene, sì, signori. Sì, padre, tutto bene. Stiamo cercando di andare avanti, se avanti si può andare, se no andiamo indietro, come i pipistrelli. Avanti Marco, c'è anche Sandro la portatore del Giaffra. Ciao, buonasera. Ciao a tutti, avanti Marco. Ciao Giaffra, ben entrato. Benvenuto tra di noi e rilancio Sandro per i saluti. Vai Sandro. Eia, ok dai, saluto Gianfranco, però la parte mia è negativa, non riesco a tirarlo fuori, tutto lì. Va bene, dai signore, vi devo lasciare perché mi devo dedicare a alcune cosette, rimango in ascolto, però lo riprendo, magari più tardi. Ok, riprendi, grazie. Aspetta che prima saluto a Sandro e poi lo licenzio, poi riprendi tu. Buonasera, ciao Sandro, Claudio, Gianfranco e Marco. Avanti, ti voglio sentire ancora una volta, Sandro, poi ti lascio andare, ok? Chiappa che sì, chiappa che sì, dai. Ciao Giulio, buonasera, dai. Una bella patacca sulla spalla. Dopo ho detto sinistra decidi tu, tutto lì. Va bene, dai signori, rimangono ascolto. Ciao Giulio, un abbraccio. Ciao Sandro, ricambiato al 100%, saluti in casa, ciao, ciao. Avanti qua, scusa se ti ho, rubato il microfono, Sandro, Claudio. Sì. Di bianco, ciao Marco Giù, buonasera, ben ascoltato e ben entrato. Ciao Sandri, chiamami dopo, vabbè 5 minuti e devo dire una cosa. Te lo devo dire già l'altro giorno, mi sono dimenticato. Ok, avanti Gianfra per Giulio. Sì, buonasera Giulio, ben ascoltato. Saluti anche a Sandro. Buona serata anche a lui. Poi ho visto che si sta avvicinando un bel po' di nuvole, quindi presumo che tra un po' come scenderà l'aria, tra un po' per cambiare. Come è la tua acqua domani, però? È greccare ancora. Sto guardando, è ancora greccare. A meno che non ci sia l'impeccio. Se rimane a greccare così, è meno fastidioso anche. Prova quello mi ha dato domani. Vediamo se non scarica stanotte e poi termina. Però oggi l'aveva data tutto il giorno, anche in nottata, perciò ancora deve scaricare magari. Avanti Marco. Ehi, ciao Giulio, ben entrato. Ben entrato, ehi, ci manca solo Gianni al gruppo. Te la vado a trovarlo, visto che adesso è libero. È un po' a casa a riposo, vado a trovarlo. Manca sempre la voglia di farlo, dai. Oppure ci dobbiamo sentire prima, presto. Capito? Dopo una certa ora mi viene l'abbiocco. Ti prendo io allora per salutare a Marco. Ciao Marco, ben ascoltato. Sì, il mio meteo mi segnala pioggia qui ai punti dalle 18. Dunque sono le 18.30, per cui sta già piovigginando qua, ok, vento a 29-30 km l'ora, tutto lì, va bene, avanti, Gianfra. Sì, ciao Giulio, da qua mi sta salendo le nuvole da sud, sta arrivando, sono basse, ma proprio di quelle cattive, nere. Prima c'era la luna, si voleva bene, poi adesso non si vede più, tutto nuvole nere. Quindi il rumore è stanotte piova, non credo che passi così tranquilla, troppo bello. L'importante è che non ci siamo temporati, pure. Può anche fare un po' d'acqua, l'importante è che non sia violenta, ecco. Tutto lì, siamo a peggiorina. Avanti Claudio, tutto bene? Sì, grazie a Dio, sì. Si tira avanti, va bene. Si lavora, sto facendo appunto, c'era anche Eugenio, sto facendo la chiacchiera con lui, poi è andato via. Che sono un paio di giorni, se vuol dire la pioggia, dunque la pioggia. Sono sempre intanato in ufficio. Speriamo che ormai non piova così. Faccio qualcosa esterna anche. Va bene. No, vi ho sentito ieri sera Marco con Gianni, però ho acceso 2 minuti e poi ho spento perché c'era gente a casa. Poi c'era la partita alle 6, quindi c'era un genero, quindi c'era un'altra partita, poi alle 8 insomma non c'era altro. E quindi il piano, sai, gli impegni serali. E quindi non sono entrato, comunque vi ho sentito che c'eravate. Avanti Giulio. Ok, allora mi ha sentito anche quando sono entrato io, nel frattempo, nel primo tempo che era finita la partita, e avevo appunto dato l'informazione a Marco e Gianni che eravamo assenti, sia io che tu, proprio a causa della partita sicuramente. Io ti avevo salutato, suppongo che tu mi avrai sentito, almeno credo. Va bene. Comunque sei contento? Io sì. Siamo a quota più 6, per cui adesso va bene. Adesso staremo a vedere domenica, Ocla. Più 7 siamo, così. Più 7, o più 6, non lo so. Sì, contentissimo, sì, ho sentito. Ti ripeto, non sono potuto intervenire perché c'avevo già. Ho sentito i saluti, ho sentito che tu e sei entrato, infatti loro dopo hanno commentato il fatto che io non c'ero e Marco ha detto appunto che è contento Claudio che ha vinto la Juve, però c'avevo gente in lontananza, vi ho sentito, c'è lo sento che ho la radio, quindi con la porta aperta nel salone si sente tutto. Va bene, sì, sono contentissimo, contento perché, però ti posso dire che ha tenuto bene il dottore, è una squadra che non segna ma si difende molto bene, no? Domenica è un po' più triste, se andiamo a vincere a Cagliari allora il problema è risolto, anche quest'anno lo scudetto di 8 riesce alla Juve, però il Cagliari in casa è sempre tosto, è già tosto fuori casa, no? È posto in casa piuttosto il suo Moriello che va segna da tutti i lunghi. Vabbè, ok, avanti Marco, riprendi. Io sono un po' spento, un po' senza parole, lo sai, poi sono stufo di stare a casa a questo tempo. Cioè, siamo andati solo a fare la spesa, ma anche uscire non vuol dire fare la spesa e poco, capito? Non ci piace uscire col tempo grigio, brutto, quindi anche oggi a casa. Siamo andati solo da Lidl a prendere due cosette, dai. Per il resto sono senza parole, dai. Fare tornare la parola io. No, siccome è spento io vorrei accendere, so che la benzina costa un po' cara, come lo possiamo accendere? Non so, ci vorrebbe qualcosa di più economico. Oh Marco, se vuoi entrare in tempera beviti qualcosa di alcolico forte lì, così ti scalda e ti metti l'azione. Probabilmente ancora non hai cenato, o meglio pranzato, perché data l'ora, ed è per quello che sei un pochino spento. Confermi? Sì, esatto. Sì, è vero, non ho pranzato. Stamattina ho fatto colazione alle 9 di mattina anche. Quindi c'è un gap notevole oggi. Avrei anche mangiato prima, ma aspetta un po', dai. Forse è per quello che sono un po'... Un calo di zuccheri, oh, poverino. No, un calo di zuccheri no, quello non deve mai succedere, ci mancherebbe. Avanti, Cla, scusa se ti ho preceduto nel prendere il microfono, o meglio per non averci passato il microfono. Avanti, Cla. Assolutamente, non ti preoccupare, sono qua io, quando mi chiamate rispondo, mi ha finito, e allora c'è, sono belli, oggi è freddo, hai vigliato, questi sono me rifugio a droghi. E Gianfra, bisogna accenderlo ogni tanto a Marco perché perde l'orientamento delle ali, capito? Perde l'orientamento delle ali e quindi si accascia, secondo dove si appende, ne manca la parola. Vabbè, Sandro quindi è andato via, vediamo se c'è Eugenio che stava facendo cosa lì. Eugenio, ci sei? Non c'è, riprendi tu già fra allora vai. Marco, sempre triste, mamma mia. Un po' pare agghiacciato, dovrebbe essere un grillo, ma poi c'è un pipistrello. È cosa che capita. Forse dovrei maniattare qualche un po' trovi con la droga che ti fa diventare euforico, no? Così almeno lo tiriamo su. Avanti Giulia. Ok, già fa. Oppure guarda, un peperino, cioè un coso, come si chiama? Il Peppe in un certo posto, vedrai che lo sveglia e come, altro che... Marco, che ne dici? Guarda, per... No, già... Non stiamo parlando in due, no, ci vorrebbe... Per riprendermi ci vorrebbe, detto in inglese, una F-I-G-A. F-I-G-A. Scandito in inglese, dai. D'estate sono i fichi, Marco, d'estate sono ce n'è. Vabbè, abbiamo capito, dai. Vabbè, allora datti da fare, quello dipende solo da te, Marco, non da nessun altro, solo da te dipende, vero qua? Allora, però sto dicendo che i fichi sono d'estate, adesso non ce n'è, quindi deve avere un po' di pazienza. E poi se è freddo potrebbe avere anche delle difficoltà, non credi? Perché è freddo, sai com'è? Cosa dici qua? Sono d'accordo con te, capito? Deve avere un po' di pazienza d'estate. Mette a bagno, togli le spine, si può fare, adesso non ce n'è, sono in costruzione, capito Marco, quindi deve avere un po' di pazienza, vero Giaffra? Sì, io di fichi ne ho due alberi, ma perché io sono sempre pieni, cadono sole, non è che tu puoi mangiare tutto perché ne fanno tantissimi, e poi c'è la terra e... Il vento che c'è, molti fanno anche peso. Sono stato anche cose strane in questi giorni, sono uscite le formiche, i mille piedi, poi non le ho più viste veramente, c'è stata strage, ma hanno detto da alcune parti stanno uscendo di nuovo le mosche, non si capisce più niente, perché no, c'è un disastro anche da parte della natura, sembra che sia tutto capovolgendo. È vero, eh. Io a casa ho visto un paio di mosconi girando e qualche moscerino piccolo. Cioè in pieno inverno mio, a gennaio, anzi a febbraio ormai, mai visto, gli insetti in pieno inverno. Ci stiamo tropicalizzando. Ma io l'altro giorno stavo seguendo una trasmissione alla televisione e c'era questo esperto che stava dicendo che sono in estinzione le api, e dunque 4-5 anni se continua così le api si estinguono ed è un danno grandissimo per l'umanità, soprattutto per l'impollinazione, tutte queste cose qua. Però non ho capito che cosa potrebbe succedere all'umanità estinguendosi le api, appunto, boh, non lo so. Bisogna che chieda a mia figlia, così per farmi, così tanto per tenermi al corrente. Vai qua. Sì, infatti è così, perché l'altro giorno, proprio lì a Santa Maria Colina, sul giorno che c'era la giornata di sole, diciamo, la temperatura insomma è sempre invernale, ho visto le api, vespe, cosa sono. E quando lasci la porta del poggiolo aperto, qua entra qualche mosca. Che strano che è. Veramente molto molto strano. Proprio la temperatura è cambiata, il clima è cambiato, non si sa cosa fare. Vabbè, sarà. Gianfra ha detto i fichi quando ci sono, è periodo, tu dilla mai già vengo io col cestino, che qua vanno matti, i fichi e non i fichi d'India. I fichi, qua vanno matti, mia figlia e mia moglie, ogni volta mi rompo le scatole. Quando è periodo, ma finché non ce n'è di latte in quelle zone, già ce n'è, ma a me hanno rotto le scatole per un certo tempo, io durante il lavoro a fermarmi, a stare a... capito? Però nel pomeriggio, tu me lo dici, io vengo col cestino, già te li faccio io, non li facciamo cadere per te. fichi d'India e a me piacciono. Ma è vero che i fichi d'India, se ne mangi molti, danno stitichezza? No, questi le tocca fatti. Cioè? Che stringono, sono micidiali. Ah, allora ricordavo bene. Sì, anche i fichi sono buoni, buonissimi. Quando andavamo a Florinas, voglia a tornare con i fichi, adesso tutto il malore è andato. E poi c'è l'appoggio di nonno, diciamo, era pratico del posto. Le more prendevamo, mamma mia che buone. E poi come se ne vanno i nonni, finisce tutto. Entra. E che mi pare manimoco, se non vai te la fai la roba cosa a nonno, devi aspettare. Giulio. Vabbè, evidentemente non ha molto spirito di sacrificio. Marco, muoviti che ancora sei giovane. Sto scherzando Marco, ci mancherebbe, figurati. E vabbè, diciamo comunque che in realtà non a tutti e tutti, quello che stava dicendo Marco corrisponde in un certo senso corrisponde a realtà, perché gli anziani di una volta, io parlo quindi dell'era di mio padre, poi se torniamo ancora più indietro, quindi dell'era di mio nonno, eccetera, non a tutti e tutti, allora sì, che gli uomini si dedicavano di più alla campagna, anche se non erano contadini, sia ben chiaro. Non lo so, c'era una certa passione, forse c'era anche più spirito di sacrificio, perché si andava lì a lavorare anche non essendo del settore, per cui non lo so, comunque oggi è tutta la vita cambiata, non solamente quella del contadino o degli anziani di una volta. Va bene, avanti Gianfra. Sì, volevo chiedere a Claudia a proposito di campagna, se siamo iniziati i lavori qua, anche se con questo tempo penso che non si potrà fare niente. Sì, non c'è stato anche il basamento, erano già molto molto avanti, non c'è gettato tutto. Stanno andando. E beh, lì ho detto chi c'è. C'è un cartolino e lì c'è un'impresa grossa. Quindi per questa estate sei sistemato? Sì, vediamo, decide mia figlia. Io sono legato a lei purtroppo. E al mare dove vai, Claudio, di solito? Tipo, che ne so, Portoferro, Saline, Cimanno. Alle Saline vado io quando sono libero, alle Saline, perché mi ha fatto trovare sempre lì, capito? Però non pensare che io abbia molto tempo per andare al mare. Il mio mare quest'anno sarà nuovamente l'Isola Rossa, perché io adesso da maggio, proprio dal 1° maggio inizio il turno fisso, quindi dalle 7:30 alle 5 del pomeriggio. Perciò come ogni anno, ma che l'anno scorso, il periodo appunto di luglio-agosto, lo scorso agosto ho fatto, adesso vediamo se c'è la possibilità. Porto anche mia moglie, rimane lì, capito, qui si va del mare. Eia. Bene, dai, riprendete. Sento odore di pappatoia, mi pare, fra poco. Gianni non è entrato ancora, no? Gli do più room, devo portargli una cosa, invece non è entrato. Per domani sarà, dai. Vai giù. Ok. Sì, a quanto ho capito quello che ti stava dicendo, sei di fondamenta o qua, calcio escluso e compagnia cantante. Bene, evidentemente hai fatto un affare, nel senso che stai cercando di costruire una casa in campagna probabilmente. Bene, sono contento per te. Stai andando con Cribbia. Cosa vuoi che tu dica qua? Tutto lì. Oi. Dipendi. Va. Gianca. Ciao Franco, sì. Ok Giulio. Comunque, quando vado in festa, finiscono anche abbastanza rapidamente e quindi puoi iniziare già a fare dei tuoi corsi. Ma quest'anno poi non dovrei andare in pensione? Aspetta un attimino che sono al telefono, un secondo poi vi rispondo. Sì, ok, riprendi Marco. E io. Cosa dire? Boh, non lo so, ci sono... non lo so. A momenti non sai cosa dire, di cosa parlare, ci vuole un argomento giusto, boh. Mi, la pappatoia è arrivata, dai, adesso userò la bocca in altro modo, dai. A dopo. Sì, a dopo allora, buon appetito. Ce la aperti alle 10, avanti. Avanti su 10, scusa Gianfra, poc'anzi ti ho cambiato nome, ma è stato un lapsus mio. Avanti su 10. Sì, ok, ciao Francesco, Sacramento, dopo un paio d'anni ti risento, o meglio ti sei fatto risentire. Sono in compagnia di Claudio che in questo momento è in stand-by, poi c'è Marco che si è dato alla pappatoia. E poi c'è anche Gianfranco che è qui con me che ti mando avanti. Avanti Gianfranco. Sì, non so se mi sente a me, perché non lo so, spero che mi senta, lo saluto. Ne approfitto un attimino dal microfono perché mi stanno chiamando, mi devo allontanare, casomai rientro dopo. Riprendi Francesco i signori, se mi stai ascoltando. Uno nuovo. Ok Francesco, riprendo io allora, Giulio da Sassari, e ti ringrazio per essere entrato almeno a salutare, dai. Fatti sentire comunque nei giorni a venire, così noi siamo sempre qua sul canale 10, tutte le sere, per cui se hai voglia siamo qua, sì, ben accetto. Salutoni allora Francesco, alle prossime, dai, io rimango un attimo in stand-by, appena rientra Claudio poi riprendiamo, perché Gianfranco si è sentato, Marco sta pranzando, per cui io sono in attesa, ok? Registrato, ok Francesco, rinnovo anch'io di nuovo i saluti, dai, salutoni e ti ringrazio ancora una volta per essere entrato a salutare, fatti sentire però, non fatti desiderare troppo, che qua si parla tutte le sere, su questo canale ricordate, sempre canale 10, ok, avanti Brecchi. Ciao, buonasera a tutti, doppio room. Ciao Giulio, ciao tutti gli altri amici che sono in ruota, non so chi ci sia perché ho acceso adesso, dai, non ho fatto ascolto. Ciao Gianni, al momento ci sono solo io, dai, Gianfranco si è sentato un attimo, Marco sta papando e Claudio al telefono, per cui sono in attesa, avanti Gianni, solo buonasera naturalmente. Sì, dai, ciao, buonasera anche a te Giulio. E niente, io mi stavo accendendo per fare ascolto se dice Vittore e poi invece l'ho acceso un po' visto che c'era, ti aspetto là. Allora, tutti Marco sempre pranzando a quest'ora. Comunque io prendo in giro e vi da dire adesso sto pranzando anche io tardi perché ho degli orari allucinanti al lavoro, sto uscendo alle 3:30 arrivo a casa, porto giù il cane, quindi si fanno anche le 4, poi tra una cosa e l'altra, le 5 meno un quarto si fanno. Ok, io già, vabbè, non ti preoccupare che tutte le ore sono di Dio, ci mancherebbe altro, caspita, un orario va dall'altro mio, è tutto sommato, è solo una questione di abitudine e di organizzazione personale, per cui va bene, pensa, quello che conta è che non manchi mai il mangiare, Gianni, ci mancherebbe altro, oltre a giorno oggi non manca più a nessuno, figurati, per cui va sempre bene, no, non è un problema, che poi siano le 2 o che siano le 5, interessante che si vada avanti tranquilli, o Gianni, riprendi, tutto bene comunque? No, il problema è che magari avevi certe abitudini e adesso le devi cambiare per forza di cose, perché tutta la settimana sono quasi tutta la settimana esco alle 3 e due volte alla settimana esco alle 2, il lunedì e il mercoledì esco alle 2, gli altri giorni sempre alle 3. Vabbè, adesso già sono a riposo, sono recuperato dalle ore, quindi sono a riposo fino al 18. Ok, io già, d'altronde se hai cambiato l'orario per questione di lavoro è chiaro che poi sei obbligato a rispettare certi orari per il pranzo eccetera. Vabbè, lo stesso, poche parole hai, due rientri tutte le settimane, così Gianni confermi? Ho capito bene? No, non ne ho. Esco alle 2 invece che alle 3, esco alle 2, faccio dalle 8 alle 2 per due volte alla settimana, che sarebbero le ore che dovrei recuperare con la sera libera, no? Ma le danno così, mi fanno fare due ore in meno e recupero la sera, invece di darmela me le fanno recuperare in ore. Ho capito, sì, tutto sommato già, almeno secondo le mie idee, tutto sommato ci hai guadagnato, così a volte ti trovi con la serata libera e puoi fare quello che ti pare. Diversamente sei stato impegnato, anche se la sera si trattava di un paio d'ore, dalle 5 alle 7 come prima, però ti bruciamo la serata, così secondo me è più conveniente, a te non ti piace così, o preferivi come la prima? E diciamo che dalle 8 alle 3 è un po' dura, però si fa lo stesso, non c'è problema. No, preferisco così perché almeno qui dopo pranzo mi riposo, e sto più tranquillo, non sto con il problema che devo svegliarmi per andare, magari non mi sveglio, sai, con questi pensieri magari non mi sono la sveglia, cavolo, come è successo stamattina, devo andare a prendere Emanuela all'aeroporto. Tutte le mattine mi riesce da risì, stamattina non mi ha svegliato, cosa è successo? Che sicuramente parlando al telefono che cosa, ho toccato qualche tasto e ho cambiato l'orario. Senza accorgermene è andato avanti di un'ora e praticamente non mi ha svegliato. Per fortuna c'ho la sveglia incorporata io. Certo, a quell'ora mi sveglio, quindi alle 7:20 dovevo andare da Riva Valle 8 l'aereo, dovevo partire alle 7:15, ma prima di andare io lo sai benissimo che devo lavare, portare il cane eccetera eccetera, non ce l'ho fatta, ma l'ho fatto appresso il cane e poi all'aeroporto gli ho fatto portare i bisogni. E così, diciamo che non era manco una giornata bella, quindi sono dovuto andare piano, tranquillo, ma io non corro mai, non c'è quel problema. Piano piano sono arrivato tutto puntuale, ho trovato Manuela fuori che mi stava aspettando. Ma è così, dai, correre non ha nessun senso secondo me, per cui va bene così, ci mancherebbe altro. Cretina, no, il punto è diventato troppo rischioso, poi specialmente questi giorni, sempre piovendo, con la strada bagnata, no, è meglio andare piano. Hai visto anche ieri quell'incidente lì, prima delle luci gialle, capita, frontalmente si sono battute, non si sa mai, oggi come oggi bisogna avere occhi dappertutto, e soprattutto cervello, perché chi guida soprattutto, non va bene già, dai, fai bene andare piano, non te ne prendi mai fretta Gianni, è meglio due minuti in ritardo, ma tranquilli sempre. C'è qualcuno che vuole entrare, avanti? Mi era sembrato che era una faccenda importante che stava cercando di entrare. Sì, ma è così Gianni, io lo stesso, cerco di andare sempre piano e soprattutto con la massima prudenza, poi naturalmente siamo nelle mani di Dio e può succedere di tutto, questi ovvio, no? Però se c'è prudenza è sempre più difficile che possa succedere qualcosa di spiacevole. Se vogliamo c'è più il tempo di fare una frenata, se vuoi forte la macchina ti pattina e non perde il controllo, c'è poco da fare. Ho detto, non ho sentito nulla di questo incidente che è successo qui a Pascoli, ma feriti ci sono stati? C'era il morto. C'era il morto e due feriti gravi, tra l'altro, persone di una certa età anche, il morto 71 anni, poi c'era la coppia di coniugi, uno 72 e l'altro 71, sempre, e anche quelli, frontalmente sono battuti, prima della cosa, come si chiama, della prima rotonda, cioè quando tu da via Pascoli vai dritto, prima prima rotonda ci sono sbattuti lì, come abbiamo fatto non lo so, almeno che non ci sia stato da parte di qualcuno un malore, così è andato a finire sulla corsia dell'altro, chi lo sa, più che così non poteva essere. Gianni, avanti Gianni. Un controsenso. Allora, non controsenso no, evidentemente qualcuno di loro ha avuto qualche malore e è finito saltando dalla corsia dell'altro, ma ecco che è avvenuto l'incidente frontale e non è che non era possibile diversamente, perché cosa era? Dopo via Pascoli 150 metri, 200 metri massimo, e c'era subito un incidente, tanto è vero lì c'era deviazioni, ieri un traffico che non te ne dico niente, per cui c'erano i vigili, poveretto, stava piovendo abbastanza e il vigile sotto la pioggia così che dirigeva il traffico, insomma, mi ha fatto anche pena, poveraccio. E ci penso anche io, lo sai. Stamattina, ieri stava piovendo a dirotto tutto il giorno, io stavo facendo documentazioni, stavo andando a fare un prelievo di sangue, c'erano i figli sotto la pioggia che dirigevano il traffico, anche donne, tutti bagnati, tutti fradici, anche se hanno quella mantella, però sa, un po' ti fa pensare, specialmente quando tu l'hai fatto quel tipo di lavoro, nel senso che hai lavorato all'aperto quando piove con tutte le temperie, capisci cosa vuol dire? Beh certo, io lo credo, ma insomma, uno che ha un minimo di sensibilità a vedere delle persone che lavorano lì sotto la pioggia scrosciante, è chiaro che non è piacevole per nessuno, almeno le persone del buon senso, poi naturalmente ci sono anche le persone infami nella vita per cui non gliene frega niente degli altri, che pensano a se stessi. Avanti Marco. Buonasera a tutti, sono rientrato e ho tirato il telefono a terra. Ciao Gianni. Ciao anche Marco, ciao a Claudio. Voi siete tutti e due. E che è successo con l'incidente di Giulio? Di notte? No, almeno 20, 2-4, una cosa così. Io stavo rientrando a casa, dunque era quell'ora più o meno. Infatti sono stato un quarto d'ora lì via Pascoli in fila perché c'era tanto traffico, per cui c'era anche un pullman, che fosse il pullman che va a sorso, non lo so. E insomma, diciamo che c'era un bel po' di traffico, ecco, proprio a quell'ora già. Prima del pranzo, prima del luna era, eh. Luna e 20. Non è 20 era, no, meno 20 meno 20, perché io a luna ero già a casa, a luna 10, là. E scusami, meno 20, luna meno 20. Ecco appunto, sì, infatti ho detto luna meno 4, una cosa del genere, siamo lì. Va bene, ce l'ha riaffacciato Marco, avanti Marco. Via. Allora già, oggi se fossi entrato prima ti avrei portato quella radio per provarla. Adesso ci ho fatto un po' tardi, ma insomma. Tu lo sai che io sono sempre a casa. Quando vuoi, non c'è problema. Stavo a telefonare, no? Già, certe volte però quando magari non senti il telefono. Allora non ci ho pensato proprio a chiamare. Cioè non ho chiamato. No, io avevo preso l'abitudine, adesso il telefono ce l'ho sempre appresso, perché tutti mi sgridavano, mi dicevano, cavolo, ti telefono 100 volte e non rispondi, ma sai cos'è? Che io al lavoro ogni 5 secondi ricevevo una telefonata, quindi poi mi ha stufato il telefono e mi ha proprio, come arrivavo a casa, quello buio era andato un garage e via. Adesso vabbè, me lo sto portando appresso perché il telefono non ce l'ho più dell'azienda, l'ho dato al mio collega che mi sostituisce e quindi niente, non mi sta più stufando, va. E quindi? Cosa? Chi deve riprendere? Mi ha detto riprendi tu Claudio. Quello che è entrato giù, chi era? Sacramento? Sì, Sacramento, è entrato, ho salutato, ma evidentemente aveva qualcuno a casa e non si è potuto trattenere. Sì, Sacramento era. C'era il volume basso, era il telefono, ma ho capito che la lui dalla voce esce, è anzianotto anche lui, è anzianotto. Ok, chi c'è rimasto? Io mi sono allontanato un secondo, 5 minuti già faccio, sì ancora? Si è allontanato Gianfranco, non so se pure rientra. Marco e Gianni ed io, basta, e tu, siamo in quattro. Frate Pignala, ma niente, sì. No. La cambiosa, ma niente. Ma no, perché non rispondi? Stavi parlando con Marco. Ma quello che dovevo dire gliel'ho detto, fate girare, no? Marco, com'è che hai mangiato? Come butto? Tipo frittelle? No. Niente in butto, dai. Io sapete, mangio poco. Poi spesso. Quanto un uccellino o di più? È almeno il doppio dovreste mangiare di un uccellino. Dipende, se un uccellino da 70 kg. Vabbè, dai, così grande, no, quello può anche picchiare da uccidere, quello potrebbe essere un'aquila a quel peso lì. Penso, non lo so quanto può pesare un'aquila, ma vista le dimensioni più o meno, penso che ci sarà, 70 kg. Ma cosa? Dove non avrebbe a pignare un pipistrello, capito? E quindi è piccolo, è piccolo. Poi che ora sono 7-8 minuti, quindi ancora. Fra un po' gli arriva il pranzo, capito? A noi ci arriva la cena. Bene mera, e allora già, ti prese fattende? Sì, io fortunatamente non faccio quella strada, però arrivo sino alla rotonda da Sorso e poi taglio dall'altra parte praticamente, capito? Passo davanti a casa tua già. No, non faccio tutto quel giro, io mi c'erano ancora i vigili del fuoco, i vigili urbani e c'era ancora una macchina, penso che fosse la Panda. Penso che fosse la Panda lì, all'angolo, tutta schiacciata, tutta fatta con l'uomo, poverino, è morto. E non facevano passare ancora. Ed erano le due, boh, sono state 2:15, 2:20, quindi immagino già di tu. C'era ancora il traffico bloccato, stavano deviando per via, per casa tua, già capito. All'incidente è successo dopo il ponte. 50-20 metri prima di arrivare al ponte, dopo la ola bunker praticamente, prima di arrivare al ponte, proprio dove c'è la ringhiera, lì dai, quel marciapiede sollevato lì. Ah, ho capito, di fronte al Ciso quindi. Esatto, proprio quasi di fronte al Ciso. Ma mi pare che adesso il servizio non lo stanno nemmeno più facendo come lo facevano prima, stanno facendo solo manifestazioni, l'urgenza non le stanno più facendo, se no sarebbero stati lì gli ambulanti. No, c'era il soccorso sardo immediato, ce n'era ancora un'ambulanza, quando sono passato io mi hanno tutto fatto deviare, però avevano già portato via tutti, tanto quello la Panda è morto, quelli della 600 sono gravi. E poi a me da chi fa un mio Giulio, cioè lui ha 71 anni, è andato a prendere in pieno una macchina con un altro due vecchi, uno di 71 e lei di 72. Sì, infatti, io appena che sono arrivato a casa ho fatto, ma se c'è qualcosa di grosso, senz'altro ci sarà subito la notizia sulla Nuova Sardegna, cioè tramite la Nuova Sardegna al computer, e così è fatto. Io ho acceso subito il computer a casa e ho visto che c'era un incidente grave, c'era accappato un morto, insomma, in poche parole. Non c'era stato bisogno di aspettare a oggi per avere la notizia, perché l'ho saputo subito, sai, quando ci sono cose così gravi, la Nuova Sardegna li pubblica subito anche sul computer, e io l'ho subito intuito, se avesse stato qualcosa di grave, e allora la curiosità mi ha portato a controllare subito, tutto lì. E oggi ce n'è un'altra di macchina sbattuta al palo lì, in via Donizetti, alla Feroce, e come ne ha sradicato un palo, ne ha sradicato, e la macchina l'ha distrutta, una macchina sportiva rossa, Gianni, tipo quella macchina, adesso non so se è quella, per carità, però tipo come quella di Tone, quello che ha la pizzeria all'angolo di Via Pascoli. Non so se la conosci la macchina di Tone. No, non la conosco, conosco solo sulla furgonetta che c'è, basta. Io lo vedo sempre il furgone. Sì, è quella macchina americana. Sì, infatti è una macchina straniera, sportiva, dai. Io non so se è quella, io adesso sto solo pensando che poteva essere quella, ma spero che non sia lui, poveraccio, perché già ne ha già passato e se fosse quella l'incidente è grave, perché ci ha distrutto tutta la macchina, si ha distrutto, quindi, perlomeno tutto il muso davanti. Insomma, a Torre, se poi lì è, sì, perché non sono più venuto a comprare i panini, quindi non lo so. Ma avevo raccontato che aveva chiuso Gianni, motivi un pochino problematici per lui, però così mi hanno detto, così ci sto riferendo. Poi se c'è qualcosa che corrisponde a verità non te lo so dire, ti sto riferendo quello che mi hanno detto. Sì, perché ho visto la serranda chiusa l'altra sera, sono passato e ho detto, ma strano che chiusi. Sì, è già un po' di giorni, saranno almeno una ventina di giorni che appunto la serranda è abbassata. La serranda è abbassata, va bene, dai. Avanti Marco. Sì, scusate ma devo chiudere, dai, ci sentiamo domani. Ok, buona serata a tutti. E buon tutto, dai, a domani, ciao ciao, riprendi Gianni? Ciao ciao Marco, ciao, Marco. Ci sentiamo, dai. Domani siamo a casa, sicuri, non c'è problema, telefono, ti telefono io, come vuoi. Ma già vai, moscio moscio, come avete caggiuto dalla tenda? Tu, ma vedete se è mosciato questo, quanti ci sono i pittati rari? Sì, Giulio, c'è un... io... contore ci conosciamo bene, anche perché metteva la macchina nel garage che avevo io in via Pascoli. C'è un problema... dai... NAS. Sì, a me me l'hanno riferito io, ormai la zona... ci manco da un bel po' di tempo, non voglio, ci sono sempre, ma è come se non ci sia, perché è per il semplice motivo che vado lì magari mezz'ora, un'ora e poi spariscono. Prima quando ero aggiornato intero, Maria io non più c'è formazione nella zona, venivano tutti da me a chiedere, ma oggi come oggi non sono più informato della situazione della zona lì intorno, per cui ma chi ci abita lì in zona me l'ha riferito e... io spero che non sia come mi hanno detto, io spero quello, almeno per lui, non per altro, tutto lì. Vabbè, tu mi hai già capito ad ogni modo, dai qua. Mi prendi Gianni? Te l'ho chiesto io perché l'altra sera ho trovato chiuso, capito? Sono passato e tu dici che prendo qualche pizza per casa, invece era chiuso. Che strano, che ha cambiato zona, che se n'è andato da un'altra parte, ma lì riprende, va bene, mi auguro che continui a vendere. Ma non so cosa dirti già, non so poi se ha cambiato zona, se ha cambiato lavoro, io so solo che lì adesso non c'è per motivi simili. Per cui, ripeto, io davano tutta la fortuna di questo mondo, ci mancherebbe altro, figurati, anche se non è che ci conosciamo benissimo, però quando ci incontravamo, ciao ciao e basta, tutto lì, niente di particolare, però siamo tutti sulla terra e la vita non si sa mai quale riserva ti conserva, capito? Ora, per cui speriamo bene, tutto lì, avanti qua. Sì, penso che sia temporaneamente, una cosa temporanea, ho detto al mio barbiere, ma devo dire che avevo barbiere, un mio diuccio, quindi, fai vedo, e ha usato tutto di tutti, e me l'ha accennato, pogarsi sia la sua con la macchina, pogarsi che sia la sua, te lo dirò con esattezza. aspetta proprio in settimana, perché devo andare nuovamente al barbiere. Io di 15 giorni vado, purtroppo, perché il lavoro che faccio è capire quanto ne sono soccorti, e quindi è così, e te lo dico perché ce n'è una sola così a Sassari, capito? Quindi speriamo sia la sua. In questo periodo era a mille, nel senso che era un bel nervoso, un bel, capito? Quindi può darsi una distrazione, una che cosa, non so, vabbè, speriamo bene. Comunque dovrebbe essere provvisoria la chiusura, dai. Dovrebbe essere provvisoria già, ti ho detto. Ma poi quando ti pigiami cominciano a fasciarsi di cose, succedere tutti i cose una dopo l'altra. Ui, io la settimana del 20 saranno cazzate, però ho cominciato. Mi ha rotto i braccetti della tenda, perché era lavoro, quando ha fatto quel vento, mi ha spaccato i braccetti e per fortuna non sono caduti più. Dopo si è rotto il flessibile della vaschetta, se lo cambio, mi metto il tempo, mi fusano, ecco, e per terra, da dove lo ho visto. Prendo, lo rismonto, mi metto il tempo e torno. Ho preso e ho messo la canapa, non ha più senso, te li baci. Già, purtroppo è così, quando comincia la ruota a girare male per una persona, ne succedono di tutti i colori. Una volta, come dicevano gli anziani una volta, allo zoppo la spina, in effetti è così, allora alla persona zoppa la spina nel piede per aggravarlo di più. Purtroppo così, ma io ripeto, spero che non sia la macchina sua, ma se così fosse, per carità, ci mancherebbe altro. E a quanto non si è andata fregata questa macchina, l'ha fregata l'asfalto scivoloso dalla pioggia, che probabilmente non aveva ancora lavato bene l'asfalto, e è cominciato a andare per conto proprio la macchina. Non so se per un frenato, per qualsiasi motivo, o per una svizzera, o per un errore di abbinatore, non lo so. So solo che ha distrutto tutto l'uso, con la macchina voglio parecchi, ma parecchi soldi per sistemarla. Vai qua. Riprendo io. E poi ha cominciato la vaschetta, che perdeva, mi regola a fare, non perdeva più. Poi il domani vado a tirare il pulsante e niente, non funziona. Allora sono andato, ho comprato quel gommino, non era quello, sai cos'era? Il perno dove si infila il tappo che chiude, che chiude e alza, no? Quel perno lì. Si era spaccato dentro, praticamente ci è sceso giù il pezzo, è rimasta la filettatura vittata, ma non male, era in plastica giù, gli ho fatto, con lo scaldato cacciavite, gli ho fatto l'innesto con cacciavite e poi lo svittato. Il problema è stato trovare la filettatura per avvitare il nuovo, poi guarda, ci ho perso roba di un'ora, non ce la facevo, alla fine lo sai cosa ho fatto? Mi sono ricordato di mio padre che quando avvitava le viti che non avvitava ci metteva il sapone anticamente, faceva così, mi metto un goccio di sapone e sono riuscito a avvitare, te li vado. Sono qua, che me la pianto di voi. Sì, qua. Sì, beh certo, oppure anche un pochino di grasso, è ancora di moda quel sistema, io l'ho usato moltissimo, soprattutto quando si utilizzavano legni duri, no Gianni? Sai, quando ci sono legni duri, avvitare una vite, soprattutto se la vite è di ottone, ad esempio la vite delle maniglie, eccetera, che di solito si mette in ottone, eccetera, no? E si spezza, no? E ti frega, e ti dà fastidio poi. E allora cosa si fa? Prima si unge con del grasso e la vite si avvita un po', si slitta, magari se proprio vedi che stai cominciando a diventare dura, lo ringrassi di nuovo la vite e poi avvitesi nel forno, così non rischi che ti si spezza, perché sai, se tu avviti una maniglia e con la vite ti si spezza, poi a rimettere l'altra vite è un problema, già. Avanti qua. Via, è così, la gamba, con la gamba, tratti già, teflon, la gamba, la gamba ci vi pare serve soprattutto lo sciacquone, è molto importante. E lì c'è quello, io ogni tanto, io c'ho quello a pressione, quello basso, e quindi c'è il pomello che si svita molto facilmente. Lì dentro c'è un affare di gomma che praticamente fa la ventosa, aspira, comunque si gonfia, quando tu vai si gonfia e poi manda l'aria per poter uscire, per abbassare l'acqua. E quello quando è del tempo si buca, e quindi quando tu pigi non entra aria e non ti fa scendere l'acqua. E li compro sempre da carbone, che io ho sempre due o tre di scorta. E sembra un berretto, un berretto di plastica o Giulio. A cupoletto. Sì, infatti ti fa la ventosa, ti fa e dunque ti diciamo che ti risolve il problema, sì, ho capito come la ventosa. Dai, mi hanno chiamato, che mi hanno detto se vado io oggi in pizzeria a ordinare la cena. Ci sentiamo. Ciao, grazie per la chiacchierata, dai, domani non posso trattenermi, devo andare adesso, perché ci vado a piedi, ci vado, perché a fare il giro con la macchina uia, e invece vado a piedi, quindi faccio muovere un pochino le gambe. Ciao Gianni, grazie anche a te per la chiacchieratina, dai. Ciao Marco, se sei ancora all'ascolto, saluto a tutti e tre, ascolto fino a lì, non poi esco, dai. Poi esco, poi devo andare appunto in pizzeria a ordinare quello che serve per la cena. Ok, mi prendi Gianni, vai. Ciao giù, abbiamo lo stesso lavoro da fare anch'io, però devo scendere qua giù e ce l'ho sotto casa io. Meno male. Cava. Ok, dai, ci sentiamo, buona serata, buona mangiata di pizza, stasera tocca anche a noi. Dai, a mangiare pizza. È diventata Manuela e siamo tutti quanti insieme e via. E quindi pizza, va bene, no, io ieri, oggi fave, grande favata, mangiata a pranzo, la mangio anche stanotte, bella. Ciao Giù, grazie anche a te, le chiacchiere siamo sempre qua, ci sentiamo, stammi bene. Allora. Ok, di nuovo, ciao a tutti e due, ecco, per il prossimo, grazie ancora per la chiacchierata. Ok, vai, ciao, Giù. L'ho messo per due volte, prima ne ho messo un giro e mezzo, poi ne ho messo due giri, perdeva sempre, ne ho messo la canapa, con la canapa non ho preso più. Ok, ciao Giù, ci sentiamo. Ok, vabbè, ma la canapa... è flessibile, è troppo piccola la frettatura, non ce la fai a metterlo bene, telefono invece è meglio. Gava, ok, che ore sono, 7:25, 5 minuti, 10 minuti e poi mi preparo e vado a portare il cagnone. La canapa, lo sai che è fatta, che è grossa, la basta prendere due filini invece che prenderne 5 o 6, gliene metti di meno e va bene lo stesso, non è complicato. Va bene anche perché è l'unico modo che non ha perso, col terzo non perdeva, con quella no, e quindi cosa preferisci tu che prenda? Il tempo non glielo so mettere, l'ho messo anche in altri tubatori, non l'ho mai perso, che sta più perdeva. Ah, ruggine, infatti stavo temendo a svincarla. C'è un po' di ruggine con le tubazioni, mamma mia, adesso ti devo far fare di tutto da tanto. Io non mi segno niente a nessuno, ma io ho il telefono con la pasta e il nostro tubista usa nei tubi più grossi. Il telefono lo devi mettere bene. Non è del frobo che uscì, devi metterlo in fase di avvitamento, se tu sbagli è chiaro che ti perde perché pressa, deve essere messo bene. Quindi nei flessibili, inedubiliti si usa il teflon, non la canapa. Canapa si usa in altre cose. Comunque tu usi troppo, canapa non perde, va bene, ma la canapa vuole messa bene lo stesso, ci vuole la pasta. vabbè. No. Comunque, andata, Io non sono idraulico, infatti a me tutto che puoi dire, ma di tubacchio non mi ricordo più da perché mi fanno impazzire. Quando cambio quei raccordi che ci sono sotto la panna, mamma mia, per carità. Avviti una per dell'altro, avviti l'altro per dell'altro, non esci più. Lo so, ognuno c'è un mestiere. Io ho cambiato tutti i rubinetti del bagno, però la chiave per poter cambiare i rubinetti, soprattutto quello del lavandino là sotto, c'è una chiave particolare che c'hanno gli idraulici, capito? È tipo una, come ti posso dire, un gancio, bisogna mettere la ghiera di sotto, senza quello non lo puoi fare, capito? E tante tante altre cose. Gli OR dei pomelli dell'acqua è lo stesso, quindi una rottura di scatola cambiata, però se c'è l'attrezzatura adatta già riesci a farlo, se no ti perdono. No, le cose io me le faccio io, però ti ripeto, mi faccio tutta la cassetta intera dell'attrezzatura dal mio collega che fa solo quel lavoro. Perché se no hai le chiavi adatte, non va bene. Ma io già ce li ho con le chiavi che hai scritto, ce li ho, c'è tutta la sigla. No, sono chiavi tedesche, e queste sono chiavi particolari che hanno gli idraulici per smontare i lavandini, i rubinetti dei lavandini da sotto. È una chiave fatta a uncino, sembra due ganci sono. E così, ce l'ho, tutta la sigla. Di quella lì, io l'ho cercata, non l'ho mai trovata, con quella riesci a smontare i rubinetti dei lavandini, perché è una chiave particolare, per gli altri, per le ghiere, quelle cose lì, c'ho tutto, inizia a pappagallo dalla piccola alla più grande, ho sempre tutta serie di chiavi da lavoro, io c'ho la mia cassetta, ma attrezzatura dell'auto non c'è. Ci sono tutte le chiavi, tutto quello che serve, però quello non ce l'ho. E va bene. E ho capito, quelle che ti si allargano, praticamente si allargano, poi tu come la metti nel coso, la stringi, come la stringi si abbassa una specie di becco, là, si abbassa e stringe così. No, non la chiave quella inglese, no? Quella che c'ha la rotellina che allarga e stringe, no, quella ce l'ho, questa è una chiave proprio particolare che usano solo gli idraulici per smontare i rubinetti. No, claro, non è quella che dici tu, non è quella con la rotellina, la mia c'ha un becco. E tu come tu la infili dentro il coso, poi abbassi la leva e si stringe. Quello puoi fare tante misure. No, questo è diverso, è una chiave normale, solo che è fatta, c'è il manico di una chiave e poi c'è due corna. E ci sono le varie misure, capito? C'è quella per il rubinetto, c'è quella per il lavabo. Tutta la serie c'ha questo mio collega, lo capite, vuole stare cenuto, tu ce l'hai tenuto con la pinza, non ricordo come si chiama, vabbè, comunque già ho capito, la pinza scatto, vuol dire qualcosa del genere. No, la pinza scatto, aspetta, se te la mando, guarda, se la trovo te la mando, te la faccio vedere. Ma deve essere come quella che c'ha il mio collega, amici delle imprese, che me la prendo con la sedia lì, perché sono molto molto utili, per i rubinetti sono micidiali, capito? Per i rubinetti della lavandini sono micidiali, c'hanno questa ghiera che è una rottura di balle. Aspetta un attimo. Intanto mi prepara. il cane. Si sta arrivando. Via. Vediamo se arriva, io vado a portare il cane. Sì, è uguale già, è uguale a quella lì. Vabbè, te l'avevo capito io, c'è tutta la serie di quelli lì. Però purtroppo non ti posso dire dove l'ho comprata perché si erano arrivati a mamma senza ordinare nulla e mi ha detto finalmente questa cosa che cos'è, io ho pagato il sacco pensando che fosse quello che ho ordinato, invece sono arrivate queste chiavi e ho detto ma se non te ne fai nulla dalle a me, tu immaginati da quanti anni esistono queste chiavi. Sì, se esistono un po' di anni, beh, i bravi li usano, sì sì, sì è quella lì, quella lì, è quella che mi ha prestato Giovanni, mio collega, sì, chissà che cacchio le prendono, bisogna fare da Carboni, fammi che faccio la foto, vado da Carboni a vedere, gli faccio vedere come serve questa chiave, a vedere se ce li ha, grazie già, dai, vado a portare il cane, intanto tu devi andare a ordinare le pizze, se no poi ci fa tardi, dai, a domani, buona pizzata, buon tutto, salutoni, troviali e tutti quelli che sono in ascolto, ciao. Ciao, sono Chiavi Tedesche comunque, si chiamano Chiavi Tedesche. Così ce l'ha scritto perlomeno, e poi io mi ricordo così. Poi sono passati più di 20 anni. Sì, sì, sì, sempre Chiavi Tedesche, sì, anche lui la Giammarusci, capito? Va bene, dai, porta Pippo che sta girando qua nella stanza prima che faccia qualche scherzo. Ciao, ciao, a frappè. E dai, vado anch'io a portare a lui. Ciao, ciao, ci sentiamo. Buona serata. Ciao, ciao, ciao, ciao.